casa mia, un manicomio. Ero operaio, mi sentivo schiavo, sono rimasto lì da molto fame. Oggi sta bene lasciarmi qui, non trovo a cantare, è una pazzia.